Se ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri, in questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Senti, caro Parenzo, è tornato in occasione della grande bellezza anche Scilipoti, è tornato a parlare Scilipoti. Non so cosa sia la grande bellezza. Buongiorno, senatore, come sta? Tutto bene? Senta, la grande bellezza ha vinto l'Oscar, può essere un po' un... Chi sarebbe la grande bellezza? Il film di Sorrentino, ha visto? No, non l'ho visto. Non legge i giornali, senatore, ha vinto l'Oscar. No, ogni tanto non li leggo. I giornalisti distruggono il paese. Anche perché sta chiudendo il Senato, ora chiuderà. E allora? Che fine farà lei? Qual è il problema? Ognuno deve andare avanti. La grande speranza di Scilipoti. Che significa la grande speranza? La grande speranza di andare avanti. La grande speranza è lei. Io. E coloro i quali lavorano insieme a lei. Va bene. Per contribuire a distruggere questo paese che si chiama Italia. Comincia tu. Certo, se cominciamo con Scilipoti della grande bellezza, oggi non c'è veramente un cazzo da dire, ragazzi, eh. Vabbè, non si sente niente, Davide, dai, su. Gigino a Purpetta, Cesaro, senti cosa dice sempre sulla grande bellezza, eh? È stata la settimana dell'Oscar, anche se non ce ne freghiamo, la grande bellezza è importante per far ripartire Napoli. Può essere un segnale questo per l'Italia, certo, che si riprende, certo, no? Certamente, è importantissimo. Sì. È un segnale. È un segnale molto importante. Importante. Perché secondo soprattutto lei? Soprattutto per Napoli, per l'Italia. Per Napoli, proprio il momento che stiamo vivendo. Lo racconta Roma il film, non Napoli. Vabbè, è chiaro, però diceva Napoli perché il regista è napoletano, l'attore è napoletano. C'ha un risalto su Napoli, no? Quindi l'Italia secondo lei può, diciamo, può ripartire. Ci può essere la rivoluzione, che certo, dice Renzi. Sì. L'Italia può ripartire, dice Gigino a Purpetta, per la grande bellezza che serve anche a rilanciare Napoli, anche se Napoli in realtà non c'entra nulla, tranne ovviamente Servillo, tranne Sorrentino. Parenzo, ci sei a Pompei? Ma non vuoi un grande racconto popolare su Pompei e quel che rappresenta nell'archetipo dell'Italia come modello di tutto ciò che non funziona in questo paese? No, non voglio nulla, vorrei semplicemente che questa telefonata, questo collegamento del venerdì, che già so difficoltoso, funzionasse, altrimenti vado su tutte le furie e spacco tutto. Vabbè, abbiamo il sindaco di Bari Emiliano che dice che la Purpetta gli fa orrore. Quello che dice Di Battista a Purpetta fa orrore anche a me, detto chiaramente, e credo che debba fare orrore a tutte le persone per bene. Cioè, com'è possibile che una persona che svolgeva ruoli di autista di Raffaele Cutolo, io so bene di chi sto parlando, si trovi poi a fare anche il deputato? Lei lo dicerebbe. Dice Emiliano che Gigina Purpetta era autista di Raffaele Cutolo e adesso arriva a fare il deputato, quello che è stato anche presidente, è ancora presidente della provincia di non so dove, di Caserta, sì. Allora, mandiamo Sgarbi, dai, mandiamo Sgarbi, spettacolo ieri sera a servizio pubblico, prima ancora 8:30, tutta la serata alla 7 praticamente, ha esordito dalla Gruber dicendo che NCD Alfano è una lista di idioti. Ho Ovadia rappresenta la poesia, e la poesia e la passione mancano in queste liste di idioti, l'NCD o, l'eno, o il CCD, il CCD, non c'è, vanno guarda, guarda il Parlamento, li odio per quanto sono ignoranti. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Ancora Sgarbi, i cori per Renzi sono un caso di pedofilia. All'apparenza è un caso evidente di pedofilia. Dei poveri bambini costretti a elogiare uno di cui nulla sanno e di cui nulla... Forse lo scambiano per Pieraccioni, ecco, forse... Sono per non pagare le tasse. Questo ormai è un refrain di Vittorione, eh? Ti ho beccato. Io sono per non pagare le tasse, tanto per dire, perché io devo pagare le tasse per vedere solo orrori. Tu da qui hai fatto vedere una quantità di opere incompiute, di... sai che il palazzo della regione del Piemonte, che è pieno solo di coglioni, costa 220 milioni di euro, come lo pago? Con le mie tasse. Poi se la prende con un telespettatore là, uno che è nel pubblico lì, da Santoro, perché dice: ma come, il comune di Salemi è stato sciolto per mafia? Sentite come lo attacca. Grillo, vada alla Spezia, si ribelli, impedisca lo scempio con i soldi nostri. Senza parlare delle rotatorie, per non e non parliamo delle rotatorie. Tutte intorno ai paesi terremotati. Vabbè, allora Di Battista... Sì, appunto, da uno dell'Andrangheta, il commissario che l'ha sciolto era dell'Andrangheta. Abbiamo scoperto questo pezzo di merda. Vai a vedere. No, sì, proprio così, l'ha sciolto un prefetto dell'Andrangheta. Lo sapevi? Studia. Allora studia, mi dissocio studia, da tutte queste cose. Studia, non studia, ne so studia, niente. Studia, capra e buffone. Altro che per favore, da prefetti ladri. Che rubano i soldi. Ma è possibile che dobbiamo raccontare sempre Cappuccetto Rosso? Sì. Andiamo avanti. Fanculo. Oh. Tecnicamente parlando. Allora, Di Battista. E in due minuti gli ha detto: capra, studia, vaffanculo, eccetera, eccetera. Tecnicamente parlando, però, ha detto questo. Sempre tecnicamente parlando. Senti, io volevo dirti questo. Sono qui con il presidente dell'Associazione Archeologi Italiani. Non me ne frega niente, aspetta un attimo. Che fermo. Vorrebbe... Non me ne può fregare di meno, stai zitto, fai silenzio. Mettiti in penitenza e ubbidisci. Allora, io vado pazzo, fra poco sicuramente ci sarà qualcuno che mi aiuterà in questo discorso, vado pazzo per la questione della parità di genere nelle liste elettorali, cioè dire delle liste bloccate, delle quote rosa. Mi ha beccato. E allora voglio citare il presidente della Camera, che oggi è tornato all'attacco perché ha detto che le donne sono il 50% del paese. Che vuol dire? Non è che allora, siccome ci sono, che ne so, il 5% dei dentisti, dobbiamo mettere il 5% dei dentisti in Parlamento? Boldrini, vabbè. Le donne in Italia sono il 50% della popolazione, quindi è giusto che abbiano un'adeguata rappresentanza anche a livello parlamentare. E poi c'è la Costituzione che ce lo dice. Ma quale Costituzione? Non è vero, cioè non è falso, non è vero che la Costituzione ci impone di fare le quote rosa. Poi torna di nuovo su questa cosa dell'uso delle donne in pubblicità, basta, io non ne posso più di questa storia, basta. Il linguaggio e la rappresentanza del femminile che si dà anche a mezzo stampa condiziona moltissimo, perché se una donna viene rappresentata, specialmente nella pubblicità, come un volano per vendere qualsiasi merce, il suo corpo viene esposto, la donna diventa come un oggetto, e allora uno di un oggetto ne fa ciò che vuole, e da lì alla violenza il passo è molto breve. Ma voi vi rendete conto? Cioè mettere le donne nude nella pubblicità, semplicemente perché sono delle grandi fighe, delle donne molto belle, porta alla violenza. Io devo ancora capire chi dice... Chi urla di fronte a questa cosa, oltre al sottoscritto e ad altre persone ragionevoli? Bisognerebbe urlare di fronte a questa stronzata del presidente della Camera. Dai, su, dai. Spegni la luce, passa dalla TV. Non se ne può più. Ti ha beccato come ti stendi nel letto, quel noioso insetto. È con noi, caro Parenzo, Oliviero Toschiani. Caro Oliviero, come stai? Bene, siete ancora lì, sono contentissimo. per il momento, per il momento, finché non ci chiudono col chiavistello, ci cacciano, ci mettono la mordacchia. Senti, la comunque, ma ho sentito Sgarbi che ha detto, con chi si era incazzato? È con uno che ha detto, ma ti hanno sciolto il comune di Salemi per mafia, e lui gli ha detto, no, il prefetto, quello che l'ha sciolto, è stato accusato di 'ndrangheta, è tutta una cosa complessa, sai. Comunque ha capito che c'era la mafia, sono contento. Cioè, hanno capito che c'era la mafia, ma dove? Comunque Sgarbi, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo, dai. Beh, adesso è fisso. Dice da anche delle cose giuste. Adesso è fisso da Santoro, no? Hai visto? L'hai visto, stanno diventando tutti amici. Sì, è diventato amico con il suo amico giornalista, con tutto, Travaglio. Con Travaglio. Tra un po' si baciano, sono due gay. Qualche tempo fa, si mandavano... Detto un figlio fra Travaglio e Sgarbi insieme. Chi, scusa? In una? Un figlio di Sgarbi e Travaglio, se riescono a fare un bambino, non è male. Ma secondo te, cioè, la cosa più incredibile di questa vicenda è che fino a poco tempo fa li odiava. Cioè, fino a poco tempo fa. No, ma Sgarbi non odia nessuno, non lo conoscete. Veramente è un gran. Vi devo dire. Eppure ne facciamo delle litigate che voi fate ridere alla Zanzara con foto le vere litigate che facciamo lui e io quando siamo soli. Sgarbi è un uomo di una grandissima generosità. No, questo e sì, per lo questa so. Ragione si incazza. Ha un senso, il suo senso di giustizia è così profondo che lo fa incazzare. Ma beh, allora questa storia di Salemi che lui va dicendo continuamente. Ma non capisce un cazzo, anche così come capisce tutto, non capisce niente. È un estremo. È un cioè, non capisce un cazzo perché lì l'hanno sciolto per mafia, hanno fatto bene, dici tu. Altro che mafia, altro che mafia, solamente lui non. Cioè, la super mafia, solo lui non la vedeva, dici tu. Ma solamente lui era così grande e non la vedeva. Senti, ma questa cosa del presidente Dragani, innanzitutto, tu sei a favore della discussione, si sta discutendo molto per l'ennesima volta. In Italia ci sono sempre le stesse discussioni delle quote rosa nella legge elettorale. Dimmi per favore che non allora, sei d'accordo, dico, sono marrato. Se fossi una donna seria, cosa che non sarei mai se fossi una donna, sì. Mi incazzerei veramente. Cioè, con che io cosa? Non capisco come le donne serie non si arrabbino su questa roba, già chiamarle quote rosa. Ma cosa vuol dire col fiocco rosa? Ma cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna per forza avere in Parlamento il 50% di donne e il 50% uomini. Ma purtroppo le donne in Italia non vogliono partecipare alla politica, sono intelligenti, non vogliono star lì a avere a che fare con questi cretini di politici che abbiamo. Ah, tu dici che è per questo. Fanno sono delle cose più interessanti le donne. Sono talmente più intelligenti. Solamente quelle stupidelle vanno in Parlamento. Guardate, tutte professione, un po' professione figa, no? Un po' professione farsi vedere. Cioè in Parlamento alla fine ci sono solo quelle che non poco intelligenti. No, Berlusconi ormai ha fatto dell'Italia un programma di drive-in, no? Da quando c'è stato drive-in l'Italia è diventata così, con tutte queste fighe, questi culi, queste tette, queste robe, e sono arrivate al Parlamento tantissime di queste rappresentanze. Cioè una donna seria dovrebbe dire chi se ne frega di andare in Parlamento, questo tu dici? Ma no, chi se ne frega, forse vorrebbe anche, ma dico in una rappresentanza così non so se ci fa bella figura. Senti, ma la Boschi ti piace come personaggio? La Boschi è carina, la Boschi, devo dire che è forse una delle più pulite, c'è un'aria impegnata, insomma. Devi sapere, Parenzo. No, mi dà fastidio questa storia, 50%, cosa si va? Si sceglie per genere, per sesso. Ma per carità. Uno deve far vedere il pisello per entrare o la patonza, non so io. No, è vero, avrebbe ragione, come dire, in teoria. Ma no? Tu sei a favore delle quote rosa. No, ma carità. Io non mettermi in bocca cose che no, ma l'hai detto ieri, l'hai detto. Ma tu sei un semplificatore cornuto, no, perché allora lui non ha problemi. Io non ho problemi perché nel senso sei bisex, che dico, però. Ma perché quale bisex? Ma sei sempre maniaco sessuale, tu vedi il sesso dappertutto, anche in una statua vedi sesso, tu come quello che la molestava. Tu, no, Luciani, io dice a me, lui vede, vede sesso ovunque, ma cos'è questa storia delle donne nude, della Boldrini? A parte il fatto che la Boldrini, devo dire che la televisione e il Cogli sta diventando una bella donna. Sì? Eh sì, una bella donna, un Bonald un po' anche, no? E allora vabbè, questo io non sono d'accordo. Vabbè, è una mia cosa. Sì, ma lei dice, hai capito, che le donne nude in pubblicità possono portare allo stupro, hai capito o no? No, ma allora lei rinnega tutta la pittura del Rinascimento, tutti Michelangelo, tutti Goya, tutte le tutte le donne. Ma ho capito, ma digli qualcosa, Oliviero, uno questa fa il presidente della Camera e dice queste cose qui. Ma è roba da matti, è roba da maestrina di provincia. Ma forse nemmeno di provincia, guarda, cioè quelle almeno hanno la cosa ruspante che queste cose nemmeno le pensano. Traffico. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, tanto. ancora a casa. Allora, bisogna fare un annuncio, Parenzo, tu non lo sai perché sei a Pompei oggi, sei in giro a fare queste grandi inchieste sulle rovine italiane, tra cui Pompei. Tra l'altro, oggi Briatore ha detto una cosa giusta in un'intervista che ha fatto al Foglio, Briatore, ha detto: se Pompei fosse in America, se una cosa del genere fosse in America, intorno ci avrebbero costruito Las Vegas. E c'ha ragione il... Giusto, Toscani? O no? No, sì, sì, avevo costruito la Svega, allora bene o male? Beh, bene dal suo punto di vista, cioè nel senso che intorno, lui vuole dire, intorno a Pompei avrebbero costruito un grande business, capito? Ma anche intorno a Roma, avrebbero fatto tutti i film, avrebbero fatto tutti i gladiatori, avrebbero fatto vedere come si faceva le legioni, è bello. Giusto, ma quelli sono i numeri uno in questa cosa sì, qui, mica sono... ma non sono dei peracottari come noi, dai. No, senti... ma sono così, sai perché sono così? Perché? Perché non hanno Pompei. Se avessero può darsi, forse ragionerebbero un altro modo. Senti, ma tu che pubblicità faresti fare al presidente della Camera, dato che tuona contro la pubblicità delle donne? Come? No, che pubblicità, il presidente della Camera non ha bisogno di pubblicità. No, ma che tipo di pubblicità gli faresti fare come immagine? Beh, quella dell'anoressia non gliela potrei far fare perché è rotondetta. Sì, non tantissimo, io... comunque sì, quella dell'anoressia no. No, quindi no, lei devo dire, è un po' incazzata sempre. C'ha questa faccia sempre incazzosa. Truce un po' truce. E dunque? Forse, non so, per una roba farmaceutica di dovrebbe calmarsi un po'. Ma però la sua passione è arrapante, devo dire che è sexy. Sì? Devo dire che è molto sexy. Ti piace, Ti piace? Ma no, devo dire che la conoscevo prima, che dall'inizio, sì. Quando era... ho fatto un lavoro con lei in Jugoslavia durante la guerra, è una gran donna, ragazzi, attenzione. E forse... Ho capito, però gli ha dato la testa questa roba qua, le ha dato la testa. Questa non è colpa mia, o forse neanche colpa sua. Una che dice cose del genere sulla pubblicità. Ma forse è andata un po' fuori, sbando un po'. Poi ancora ha continuato a dire: vorrei che mi chiamassero la presidente, vabbè, ma dice la commissaria, la giudice. Io dico il giudice, non me ne frega niente, io dico il giudice. È truce, e nello stesso tempo però si mette in modo per sedurre, cioè vuole sedurre, mette gli orecchini, le sciarpe, le rossetto e tutte quelle cose che servono a sedurre, insomma. È perfetta per una campagna pubblicitaria, da un certo punto di vista. Seduttrice. È una seduttrice. Sì. Senti una cosa, ma Grillo, che ha cominciato a cacciare tutti, allora. Che ne pensi tu, che sei stato, come dire, non è che sei uno... No, fa benissimo, perché non hanno cacciato Pasolino perché era comunista, non ha cacciato la Rossanda, il Partito Comunista ne ha cacciata di gente. Cioè tu dici, fa bene... E i democristiani non hanno cacciato la gente. Sì, ma anche il Partito Democratico ha cacciato le persone. Tu dici fa bene perché non è un partito erano d'accordo, fare una certa cosa, un certo progetto, questi qua non lo fanno, e che li cacci, tu cosa faresti? Parenzo, che dici? Sei molto vicino a cacciare Parenzo o no? Beh... No, ma scusami, ma vuoi mettere Togliatti con Casaleggio? Ma che discorsi sono? No, quello è un altro problema. Ma anche Casaleggio ma anche nel PD cacciano la gente, dai. Ma su. Chi come si chiamava quel personaggio del Goldfinger che accarezzava il gatto? Ah, quello era il dottor Morte. Quello lì era della Renfe. Ecco, Casaleggio è un po' così, lui sta là a casa, carezza il gatto, poi manda Grillo, che poveretto, lui fa è vero. Com'è che si chiama quel personaggio? Goldfinger si chiama, credo che sia lui, no? No, lui si chiamava... No, era il cattivo per eccellenza. Ti ricordi con la cicatrice sull'occhio che sì, apriva? Sì, si assomiglia un po' a Cruciani. Assomigliamo un po' a Cruciani. Ma anche quando mai? Ma l'anello. Poi apriva e cascavano dentro negli squali. Scaramanga, sì, Scaramanga forse. Ma che Scaramanga? Quello era l'uomo della pistola d'oro 007, un altro. E lui dice... Avanti, ragazzi, della cultura moderna. Lo so, non me lo ricordo adesso, Oliviero, che devo fare? Ecco, Casaleggio è un po' come quello lì, no? Che manda il suo fattorino Grillo. Era il capo della Spectre. Come si chiamava il capo della Spectre? Vabbè, dai, adesso non possiamo restare tre ore su questa cosa. Qua c'è da fare una riflessione. Il giorno che Grillo piglierà 45%, perché se va avanti così con gli altri imbecilli, lui prende... Ma Renzi proprio non ti piace, nemmeno a te? No, Renzi non è che non mi piace, spero che riesca a concludere qualcosa. Vabbè, quello tutti lo speriamo, che vuol dire? È tutto lì, ma mi sembra... Ma sembra un si po è messo vecchio. Con Alfano, ma un po' vecchio, vecchio. Cioè, è già diventato vecchio, tu dici? No, ma è sempre stato vecchio, è un'immagine di 30 anni fa. Cioè, non è un'immagine rivoluzionaria come lui vuole far credere, un'immagine... Ah, ma un pacioccone fiorentino, dai. Nulla di particolare, insomma, non c'è la rivoluzione. Ma no, ma non è solo, non ha niente di eversivo. E non dice niente di eversivo, è vero, hai ragione, anche secondo niente, me. Niente di eversivo, tutto scontato. Tutto quello che dice lo sappiamo già. Non solamente, ma sta roba di uno che twitta per parlare alla gente. Ma che cazzo twitta? Ma gli twitto la testa questo qua. Sì, poi tra l'altro Twitter non è che è frequentato dalla gente, è frequentato dagli intellettuali, da una minoranza, guarda, da un'estrema minoranza. Sappiamo, no? Dove tutti i cretini sono, in ordine alfabetico, a Facebook e a Twitter. Ah, tutti i cretini sono su Facebook, sì, e Twitter. Sì, dici, sì, tu. Non c'è bisogno. Dunque anch'io sono un cretino. Twitter, vabbè, ogni tanto sì. Quando sono il primo dei cretini. No, ma hai ragione. No, ma quando twitti lo sei, dai. Non esagerare adesso. Non è che tutti quelli che stanno su Twitter e Facebook sono tutti dei cretini. La grande maggioranza, quindi quando non è che lo siano cretini, quando twittano sono cretini. Comunque Berlusconi dice che è troppo vecchio per sposarsi, a 72 anni. Il che per... No, allora vuol dire che vuole cambiare fidanzata, si dice sempre così. Ah, si dice così, eh? Tu non l'hai detto così la tua prima moglie? Che cosa, che sono troppo vecchio? Sì. No, perché non ero vecchio, lo dico in un altro modo, però è una riflessione corretta. Tu dici che quando si comincia a dire così, sono troppo vecchio, non mi voglio sposare, è finita. Beh, non lo so, O cambia il cane o cambia la fidanzata. David? Sì, caro. Allora, guarda, intanto ho scoperto, grazie al presidente dell'Associazione Nazionale degli Archeologi, Salvo, che si chiama Blofeld, il capo della Spectre. Sì. Quello che evocava Toscani. La Spectre, è 5 stelle. La seconda cosa che vi voglio dire è che dalle 19:15 faremo tutto uno speciale dedicato a Pompei. No, cioè, non faremo nessuno speciale. Non faremo nessuno speciale. Daremo numeri, dati, cifre. Faremo proprio un'inchiesta con il Ma quando mai? Parlare il capo del giovane. Non faccio il cretino. Salvo Barrano, ti dico tutto quello che faremo. Un senatore del Partito Democratico, caro. Stai zitto! Un senatore del Partito Democratico, caro Toscani, vuole la pena di morte per quello che ha sgozzato il bambino e la madre, capito? Un senatore del Partito Democratico. I cretini ci sono sempre. Cioè, i cretini sono dappertutto. La cretinaggine è sempre rampante. Ciao, caro. Ciao, vi saluto, continuate. Ciao, un abbraccio. Non molliamo, no, le parolacce le diciamo ogni tanto perché fanno parte del gergo comune e fanno parte del bagaglio culturale del nostro paese, hai capito? Ottomi così, volumi alti così sulle parolacce, non molleremo. Bene, siete ancora lì, sono contentissimo. Combattiamo contro tutto, io personalmente, popolo della radio, popolo della zanzara, combatto ogni giorno con le follie di David Parenzo, che oggi si trova a Pompei a fare i cazzi suoi, principalmente a lavorare per una trasmissione che si chiama Matrix, di cui noi, detto con grandissimo rispetto del signor Telese e del signor Parenzo, ce ne sbattiamo i coglioni, e questo lo diciamo noi, lo dico io, ma lo dicono anche tutti quelli che sono al di là del vetro, che alzano le braccia e dicono noi ce ne sbattiamo i coglioni. Dunque io oggi devo avere a che fare con questa follia di un signore che dovrebbe essere qui a battagliare con me, che ha la testa altrove, a Pompei, a Napoli, è per strada perché sta tornando a Napoli a prendere il treno e poi la stazione. Dunque, fermi tutti, questa sera abbiamo un problema che si chiama David Parenzo. Merita una riflessione questo. No, questo non merita una riflessione, meriterebbe un calcio in culo. Però siccome io sono buono, sono tranquillo, sono alla fine, nonostante tutto, una persona a modo, diciamo così, sto calmo, sto tranquillo e lascio correre. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. No, ma scusami caro Razzi, però non è che mi posso fare i cazzi miei. In questo caso i cazzi suoi se li fa qualcun altro. Scusa, amico Razzi. Comunque sai che devo dirti una cosa, Parenzo, che alla fine Razzi io lo considero veramente tra i numeri uno del Senato. Cioè, se devo decidere con chi andare a cena tra tutti i senatori presenti, credo che sceglierei Razzi, lo sai? Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Tu una volta saresti uscito con Dell'Utri, capito quello che ti dico o no? Sì, certo, certo. Chi è questo qua adesso? A chi ha passato il telefono? A qualche stronzo? Chi è lei? Eccomi, io sono Salvo Barrano. Mi diceva che voleva fare questo collegamento. No, scusi, signor Barrano, io la manderei se non fosse che le ha passato se non fosse che le ha passato il telefono Parenzo, io sarei appunto molto tentato di mandarla a fare in culo, però non posso perché sono una persona rispettosa. Allora, per cui parliamo pure di Pompei. No, io non voglio parlare di Pompei perché ho tante cose di cui parlare. Oggi proprio l'ultima cosa di cui voglio parlare è Pompei, però io le faccio, dato che lei è una persona per bene. Ma di che stiamo parlando? No, stiamo parlando di Pompei. Allora dico, ha ragione il signor Briatore quando dice, signor Briatore quando dice che se fossimo in America intorno a Pompei avremmo costruito una sorta di Las Vegas, ha ragione da vendere, sì o no? Secondo me sì. Ma diciamo Las Vegas proprio, diciamo non abbiamo bisogno fortunatamente di costruire Las Vegas perché c'è già Pompei. Ma ci sono i soldi che non riuscite nemmeno a spendere. Appunto, amico soldi mio. Ce ne sono tanti, pure troppi forse, non si riescono a spendere. Il paradosso è che da un lato ci sono un sacco di soldi e che nessuno dica il contrario, perché i dati parlano chiaro. Vabbè. Negli ultimi 15 anni i fondi decuplicati, appunto. Ci sono decine di migliaia di professionisti a spasso comunque che non riescono a trovare. Ecco, forse se ci fosse una politica un po' più capace di coniugare queste due cose non saremmo nello stato in cui siamo. Però scusi un attimo, se Pompei fosse, diciamo la verità, se Pompei fosse in Lombardia, come andrebbero le cose? Me lo dica chiaramente. Ma sicuramente meglio. Oggi sono stato a Pompei e mi sono reso conto che non c'è nessuna emergenza. L'emergenza, parlare di emergenza conviene a tutti. Vabbè. Perché molto spesso con l'emergenza arrivano i quattrini, soldi, arrivano i quattrini. Li puoi spendere in fretta fuori dalle procedure ordinarie. Vabbè. E magari li spendi pure male. Mi ripassi, certo, mi ripassi quel cretino che sono già mi comincio a friggere. Esatto, che ormai è tutto finito. Vabbè, è finito, dipende. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Colloquio a vuoto tra Obama e Putin sulla Crimea. Mosca minaccia di tagliare il gas a Kiev e gli occidentali disertano l'apertura delle Paralimpiadi di Sochi. Renzi via Twitter, lavoro al Jobs Act e ironizza, non corro il rischio di iscrivermi alla CGIL. La Camusso, sbagliato sottovalutare le parti sociali. Italicum, 2 giorni per trattare, slitta al lunedì il voto finale, poi la palla passa al Senato. Schifani, non saremo i notai della Camera. Ancora tensione sulla parità di genere, appello bipartisan firmato da 90 parlamentari. Bindi, impegno da mantenere. Santanchè, con le quota rosa i maschi ci usano. Cancellate in appello le condanne a banca e manager per la truffa dei derivati ai danni del comune di Milano. Annullata la multa da 1 milione di euro. Una carovana dallo stabilimento veneto a quello friulano per gli operai Electrolux che dopo tante promesse non hanno ancora certezze sul posto di lavoro. La vita felice di una bimba che con l'arrivo della guerra si trasforma in un incubo. 10 milioni di click in 2 giorni per il video di Save the Children sul conflitto in Siria. Ma cosa fai, baby? Mi alzo dal letto. E cosa fai, baby? E corro allo specchio. E cosa fai, baby? Adesso mi trucco. Fuori è quasi notte. Tra poco esco. Allora ragazzi, Parenzo, ci sei stavolta? Sì, sì. Allora fermo, basta. Una cosa importante. Basta, mi sono scocciato di parlare di Pompei. Allora, cosa ma che ho? No, Pompei, una roba più importante. Dimmi, Ciocco, che non sei altro. Dimmi. Allora, sono salito adesso sul treno. Sì. E io tra poco ti avvicinerò a uno dei maestri del cinema che ho individuato nell'altra carrozza, che si chiama Pupi Avati. Okay? Benissimo, tu sai che ha firmato un manifesto. Io ti voglio dire questo, questa sarà la molto puntata cattolica dedicata alla cultura. Sì, lo so. No, dai, questa basta con questa storia, non ne posso più, dai. Non mi fare arrabbiare, su, alla basta. Sarà dedicata alla cultura. Basta. Alla cultura. Ma alla basta, cultura. Non mi fare arrabbiare però. Ma perché non vuoi? Ma perché cultura? Non me ne frega niente di queste cose, di quello che fai. Su, dai. Pupi Avati. E tu portamelo al microfono, Pupi Avati, e poi vediamo, dai. Perché gli ho detto? Io voglio capire una cosa, io non ho capito bene, Davide. E tu a che ora parte questo treno? Scusami. Siamo in diretta e registriamo. No, ma a che ora parte il treno? A che ora parte il treno? C'è un signore che vende calzini. Ma lei è un abusivo, però, dica la verità. Eh? È abusivo o no? Perché vende calzini sui treni lei? Stiamo su con questa cosa dopo. Ma fallo parlare, non si sente! Aspetta. Lei vende calzini sul treno, giusto? Yes. Sì, è un abusivo, quindi. Sì. Sì. Quanto guadagna a vendere calzini abusivi sul treno? Ma 200-300 euro al giorno. Cazzo. Passamelo un attimo, passamelo. Pronto? Questo è buono. Il signor abusivo dei treni? Buonasera, lei è numero uno. Allora, lei su quanti treni sale al giorno? A una decina. Una decina, ma che giri fa? Arriva fino a Roma, va fino a Milano, che fa? Aspetta che anche lui sto accompagnando, perché se no parte il treno e l'abusivo rimane su. Aspetta, bellissimo questo. Vada qua, aspetta che... Ma fammi parlare con l'abusivo. No, ma che dire? Cazzo, sono chiuso qui. Come fai adesso? Scendi. Aspetta, vieni qui. In diretta. Ma non tanto, non conosce il suo Radio 24, vieni. Ma vieni qua che se no parte il treno. Dimmi. Allora, amico mio, su quanti treni sali? 10, hai detto. Ma che fai? Che giri fai? Vai fino al nord? Che fai? Bravo. Ma quanto mano lo paghi il biglietto? No, figuriamoci. No, figuriamoci. Ma che chi se ne frega? Con questa crisi. Ma quanti soldi fai alla fine ogni giorno? Non ho capito. Quanti soldi fai al giorno a vendere i calzini? Sono 20, 30. Capita. 20, 30 paia? Sì. No, cioè, 20, 30 euro ti guadagni. Sì, vabbè, 20, 30 euro al giorno. E che ce fai con 30 euro al giorno? Manco ci mangi, dai, su. Bravo. Ma farai 300 euro al giorno, 400 euro al giorno con i calzini? No, a chi li dai di più? 700, 800. Ah, 700, 800, veramente? No, dimmi la verità, perfetto, dai. Ciao. Dimmi ciao, la verità. Radio 24, la zanzara era. Comunque vai tranquillo, tanto è tutto illegale in Italia, no? Ma che ha detto? Che dice? Ma chi non conosce nessuno, perché tanto... Ma che caffè? Sono qui sul... dagli 2 euro tu a te. Passami un attimo st'abusivo, un attimo. Ripassamelo un attimo st'abusivo. Ma adesso vuoi capire che vuole riparlare con te, però stiamo per partire. Dimmi un bacio bruciato. Un bacio bruciato a tutti i napoletani, forza Napoli. È roba da matti, guarda. Il venditore di calzini abusivo. Ecco. Ciao fratello. Andatelo a prendere! No, polizia ferroviaria! Andatelo a prendere subito! Andatelo a prendere subito! Stazione di Napoli! Io devo dirti, amico, fatti i cazzi tuoi. No, vabbè, che c'è adesso, fatti i cazzi tuoi. Io dico una cosa però, David. Sì. Okay, quando fai queste cose sei il numero uno. Allora, ti dico solo questo. Devi fare solo questo. Non mi devi passare quello di Pompei, che mi rompe i coglioni, non me ne frega niente. Quello di Pompei, l'archeologo, ma non me ne frega niente dell'archeologo di Pompei, che fa tutte le sue elucubrazioni, i suoi pensieri su Pompei. Mi devi cercare gli abusivi che vendono i calzini. No, cazzo, no, anche l'archeologo, alto e basso, dai, su. Aspetta, fate schifo, sto tornando. Sì, lasciatevelo dire. No, dammelo di nuovo. Ma no, sta tornando perché hai chiamato la polizia. Andatelo a prendere. Polizia ferroviaria di Napoli, andatelo a prendere. Cioè, quello che vende i calzini fa 300, 400, forse 700 euro al giorno sui treni e soprattutto non paga il biglietto. È l'Italia dell'illegalità. È l'Italia dell'illegalità. L'Italia del sud che non lavora. I parassiti. Capito? Dico sul serio stavolta, andatelo a prendere quello, altro che Forza Napoli, andatelo a prendere, fateli pagare le tasse come alle prostitute, come ai Febal, fateli pagare le tasse. A proposito, scusate, ma se ci vogliono le quote rosa, no? Se dicono che ci vogliono le quote rosa, perché non facciamo le quote lussuria? Parenzo? No, ma che c'entra questo? Ma perché allora non mettiamo le quote lussuria, le quote FBAL, quelli che ce l'hanno più piccolo, quelli che ce l'hanno più grosso? Facciamo le quote per tutto, no? Le quote per i giornalisti, le quote per gli ingegneri, le quote per i transessuali. Le quote per tutto, no? Ma non c'entra niente questo, cioè vedi, capisci? Cioè, che una come Vladimir, che è mio amico, dove si inserisce in questa cosa qua, delle quote rosa? Dove si inserisce, per esempio? Nelle donne? Cioè è tutta una follia, no, capito? Ma poi c'è una... Voglio dire, il fatto che le donne siano svantaggiate anche nei posti di lavoro tradizionali è un dato di fatto, no? No, non è un dato di fatto. Te lo ricordi Cosimo Mele? Come no? Quello dello scandalo della prostituta, certo. Sì, della cocaina. Lui non, alla fine pare che non avesse pippato nulla, eccetera. È stata condannata lei, Francesca Zenobi, per tentata estorsione a 20 mesi, capito? Nei confronti del signor Mele, che alla fine ha avuto ragione. Gli amici della zanzara di solito sono sempre molto seri. Zanzare, fanno male, ma lo fanno per amore. Le clamorose affermazioni ieri sera alla Zanzara, popolo della radio, di Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico, il quale dopo aver scritto sul suo profilo Facebook che per certi delitti efferati come quelli commessi da un signore del Centro America nei confronti di una dominicana, la donna e il bambino di 3 anni e mezzo, entrambi sgozzati in un quartiere di Milano, ci vorrebbe la pena di morte. Poi da noi ha detto che in realtà lui non farebbe mai un disegno di legge, non proporrebbe mai un disegno di legge sulla pena di morte, ma poco cambia, perché poi ci è andato giù pesante il signor Esposito, senatore del Partito Democratico, fortemente a favore della TAV, minacciato dai no TAV con la scorta. Esposito ha detto che cosa in sostanza, Parenzo? Te lo ricordi bene, perché alla fine della trasmissione non so se eri lucido tu, eh? Io sono sempre lucido e infatti tra poco sentirai Pupi Avati, probabilmente il regista, e avrai altri dati sulla situazione di Pompei, numeri e cifre. Stasera. No, dati, tanta... io voglio i calzini, voglio i venditori abusivi. Adesso avrai anche quello, anche no, altro. Ma no. Allora, Esposito ha detto, se io, sentite bene, se mettiamo un rapinatore, entra dentro casa mia, un gruppo di rapinatori, mi sgozzano il figlio, mi ammazzano il figlio, beh, mi farei giustizia da solo, con le mie mani. Va introdotta la pena di morte per certi reati, secondo te? Dimmi la verità, come la pensi, su certi reati. Da legislatore ti dico di no, e infatti non ho parlato da legislatore. Da padre ti posso dire che se dovesse capitarmi, spero che non mi capiterà mai, che mio figlio venisse ucciso in modo, non sto parlando di quello che investe in macchina, ma in modo barbaro e becero, probabilmente cercherei di farmi giustizia da solo. Ancora Esposito. Se tuo figlio fosse ucciso in una rapina in casa, come succede spesso al nord, ogni tanto, spesso, cioè, che volte spero, no? Che il rapinatore che fa una cosa di quel tipo ammazzi anche me, perché sennò lo cerco più in capo al mondo. Cioè, speri anche che lo prenda prima la polizia, magari. È meglio che lo prenda prima la polizia e lo tenga ben chiuso. E poi, sempre a proposito dell'omicidio, quello della donna e del bambino di 3 anni e mezzo, barbaramente scozzati da uno che si era scolato 20 birre, così ha detto, se gli dessero la sedia elettrica, se ne sono condannassero alle sedia elettrica, beh, non sarei dispiaciuto. Se questo tizio qua fosse mandato, cioè quello che ha ammazzato la donna e il suo figlio, fosse mandato, che so, sulla sedia elettrica, la cosa non ti scuoterebbe per nulla. No, sinceramente no. Cioè, non sarei a raccogliere firme per sospendere la sentenza. Probabilmente questa sera, lo dico alle 19:36, così se qualcuno inorridisce all'idea, può tranquillamente farne a meno. Verso le 20:30 circa, quando anche Parenzo è in una situazione più comoda, più tranquilla, più consona, David, diciamo alcune radio italiane, alcuni programmi rinomati delle radio italiane ci invitano a cantare una canzone, ci invitano, si chiamano Neck Nomination, non so se ne hai sentito parlare su Twitter, eccetera. Ho visto tutto e non so quale canzone hai scelto, ma mi adeguerò e so anche quale conduttore nominare per questa catena di Sant'Antonio. Io non ci ho pensato questo. Comunque la catena di Sant'Antonio, io non anticipare nulla. Io sono abbastanza allergico a queste cose, però devo dire che siccome mi hanno nominato, che devo fare? Ci adegueremo, Io vorrei cantare il trio Medusa. L'uomo ragno, ma so che tu non vuoi. Ma che c'entra Neck? Che c'entra Neck? Non capisci nulla. Però a me che vuol dire Neck? A me piace Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, però. Ma ho capito, ma se la cosa si chiama Neck Nomination. Scusatelo, cari amici del trio Medusa. Aspetta, cari amici del trio Medusa. Cari amici di Radio Italia, signora Paoletta e altri ancora. Perdonatelo. Non sa quello che dice e soprattutto non sa, perdonatelo. Non capisci un cazzo. Però canterà. Non so come, ma però canterà. Poi anche cantare Hanno ucciso l'uomo ragno. Anche ma non che cosa c'entra? Cosa c'entra? Che mi piace. Ma io da solo non vorrei stare zitto. Chi è questo che dice lui? Scilipoti. Chi è questa qua? Margherita. Vabbè, io vado un attimo da Pupi Avati, allora. No, aspetta, dove vai da Pupi Avati? Stai fermo lì. Tanto non c'è. Tanto dopo, fino alle 20, Pupi Avati non si può fare. Per cui stai tranquillo. Da Pupi Avati poi scende, però. Ho capito, amico mio, ma non è che possiamo avere tutto dalla vita. Margherita da Pisa. Margherita o Margherita? Margherita o Margherita? Margherita da Pisa, benissimo. Signora Margherita, dica. Buonasera. Buonasera. No, io vi ho chiamato perché vi sento spesso, e però le prime frasi non mi sono piaciute, perché come al solito delle donne parlano sempre gli uomini, delle donne mai. Ma a proposito di che, quindi, scusi? Ho detto via, questa volta chiamo. Ma a proposito di che, cara? Chiamato. Sì, no, ho capito. A proposito delle quote rosa. Sì, ma non è che per forza devono parlare donne sulle quote rosa, se parlano va bene. Però no, non è però che di solito l'unica opinione non è soltanto un problema di quote rosa, è che spesso e volentieri della questione delle donne, dei problemi delle donne parlano gli uomini e le donne non ci sentono mai. Ma non è un problema il fatto che... Poi si può parlare che il metodo delle quote sia quello corretto, io su quello sono d'accordo con voi, però che c'è un problema della situazione delle donne in Italia. No, no, no, la situazione delle donne in Italia no. La situazione delle donne in Italia no. Non c'è? Questa espressione non la voglio, la situazione delle donne in Italia. Sì, certo, vabbè, non c'è allora, dubbio. Se non le piacciono le parole ne proviamo altre. No, magari però che una donna faccia un figlio e poi 90 su 100 rimane a casa perché non il c'è lavoro dubbio, lo perde, non c'è dubbio. Che non ci sono gli asili. Per carità di Dio, assolutamente. No. Ma qui si sta parlando di un'altra cosa però, non degli asili, sì, del fatto che le donne quando fanno un figlio probabilmente del vengono... Il problema della rappresentanza delle donne, ecco, nel potere, allora, nel paese. Ecco. Diciamo, diciamo, se non c'è nessuno che ci rappresenta, forse le nostre problematiche... Ma non chi le l'ha detto che la, chi lo ha detto che le questioni femminili debbano essere affrontate per forza dalle donne? Primo. Secondo, la questione delle quote rose è un'umiliazione per le donne, una ghettizzazione, no, una roba indegna per le donne. Però c'è un dato di fatto, che fino ad oggi la situazione è questa, cioè le donne sono in tante, studiano in tante, sono molto brave, molto preparate, però nei centri di potere ce ne sono poche. Ma e le decisioni si prendono nei centri di potere. Ce ne sono sempre di più, diciamo, signora Margheta. Diciamo che ce ne sono sempre di più. Sono sempre poche, diciamo, perché poi i risultati sono quello che contano. Sì, contano, ma per arrivare a un non so quale percentuale accettabile, non è che mettere un candidato uomo, un candidato donna, uomo, donna, cioè avere per forza il 50% giù di lì in Parlamento sia il mezzo giusto, ha capito? Ci vogliono le persone capaci, donne e uomini che siano. Un uomo e porta avanti magari altri uomini e poche donne e questa situazione non si supera mai. Anch'io vorrei che le donne fossero apprezzate per quello che sanno fare e sono convinta che forse anche un aiuto di una legge potrebbe poi ho capito perfettamente questa bravura, capito? No, ma ho capito perfettamente. Margherita, ma lei ha quest'idea, io la penso in maniera completamente diversa. Siamo qui, l'abbraccio forte, Cristiano da Milano. Buonasera. Cristiano, dica. Sì, ciao. Sento poco, Andrea da Bari. Ciao Peppino, buonasera. Dimmi caro, dimmi. Ascoltami, Peppe, ti esprimo la mia solidarietà nei tuoi confronti. Ma visto che perché cosa? Scomica sono... dato il tuo scherzo che hai fatto giorni addietro, hai scoperchiato il vaso di Pandora. Di cosa? Beh, che sostanzialmente ci castagneranno con una patrimoniale, probabilmente con un prelievo. No, so, quello è quello che diceva Barca che voleva fare lui. Siccome Barca non è diventato ministro, magari non la fanno la patrimoniale. Che dici? Ma sai, le carte si fanno a Roma e alla fine. Vabbè, allora. Lì. Ma io non ho bisogno di solidarietà, perché non c'è nessuna. Ma guarda, il problema è che. Sostanzialmente... Certo, c'è un attacco concentrico nei confronti della Zanzara, ma noi abbiamo la possibilità di difenderci in maniera tranquilla. Ma guarda. Scateneremo gli avvocati, scateneremo quello che dobbiamo scatenare. Siamo qui, aspettiamo. Il problema è che utilizzano il criterio sostanzialmente che in Italia quando uno viene scopre qualcosa di marcio lo incriminano, gli danno dell'obsoleto con tutta la magari della stampa marcia e sostanzialmente questo è quello che non mi piace di questo paese. Va bene, Andrea da Napoli, buonasera Andrea. Senta, buonasera, volevo dire questo, Mara Boldrini che è così politicamente corretta, dovrebbe non solo introdurre le quote rosa, questa è una domanda che dovreste farle a lei, qualcuno gliela dovrebbe fare, ma dovrebbe introdurre anche le quote gay. Perché? Perché lei è così politicamente corretta, ci sono anche gay. No, no, ma è quello che ho detto io prima, Andrea, adesso se andiamo con le quote rosa, poi alla fine ci vogliono pure le quote... Molto imbarazzante, perché dovrebbe dire ci sono le quote rosa e le quote gay. Sì, sì, no, ma io sono d'accordo con lei. Proprio perché queste maestrine della sinistra che esprimono una falsità totale e definitiva. Guardi, io ho votato a sinistra per una vita intera, ma è vero che ormai... Insomma... Mi sembra di capire che lei le quote rosa proprio le consideri una roba vergognosa. Ma guardi, io spererei veramente, con tutto il cuore glielo dico, spererei che le donne riempissero il Parlamento, che buttassero fuori a caso sicuro pure gli uomini, visto che io ho 3 figli maschi, guardi. Vabbè, che c'entra quello adesso? Non faccia il demagogo da 4 soldi. Il potere lo conquista chi vuole conquistarlo. Sì, no, ma ho capito. Guarda, 9 lingue, tiene un master all'estero, oltre alla laurea in Italia, ma non lo vuole il potere, quindi non ci andrà mai. Vabbè, grazie Andrea, grazie. Sono come zanzare, queste ombre sulla strada. No, la cosa più sorprendente è che ancora siamo messi lì a discutere di questa cosa delle quote rosse. Io divento pazzo. È vero che le donne in Parlamento saranno anche poche rispetto ad altri paesi, per carità. Ma non è attraverso le quote rosse che i partiti devono candidarle se sono valide, se pensano che siano valide. Dai, su! Oh, torna la zanzara dopo un sacco di tempo. Francesco Boccia, Partito Democratico. Ciao Francesco. Ciao, ciao, buonasera. Eccoci qui. David, che meraviglia, subito a leccare, subito. No, ho detto che meraviglia, perché era tanto che non tornava, sono contento. Come va con la signora Nunzia, come sta il capogruppo di NCC? Adesso che c'entra, adesso subito a dire, ma è Francesco... Volevo solo sapere come sta. Ah, io proprio avevo escluso queste domande che riguardano la moglie. Ho detto, questo è un eccesso di affetto. Un eccesso di affetto di Parenzo. Appunto. Voleva sapere come stava la bambina, come stava la figlia. Esatto. Vabbè, tutto a posto, vabbè. Tutti perché bene, tutti bene. Bene. Allora, io volevo capire una cosa, signor Boccia, nei confronti di questa cosa qui delle quote rosa, lei come si pone? Come si pone? Come si sistema, diciamo? Io lo considero, sarò estremista, eccetera. No, sei sciocco. Ma sono sciocco, vabbè. Sciocchino. Lei se voterà qualcosa, al di là del suo giudizio sulla legge elettorale, con Paolo lo conosciamo, sulle quote rosa, è d'accordo o no? Io sono d'accordo perché... Devo ammettere, Cruciani, di aver rivisto i miei convincimenti dopo la legge che abbiamo approvato sulle quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate. Quando abbiamo fatto quella legge che aveva scatenato un dibattito molto simile, sì. Devo confessarle che anch'io ragionavo come lei, e in quel momento il 99% dei componenti di CDA sì. delle banche delle quotate erano... di sesso maschile. Dopo quella norma, siccome sono stati costretti i vertici delle quotate sì. a trovare professionalità di genere diverso, le hanno trovate. Che il risultato è stato che sono venute fuori professionalità femminili straordinarie che prima nessuno conosceva, perché quel mondo era un mondo tendenzialmente autoreferenziale chiuso. Sì. Beh. Io devo confessarle che la sperimentazione di quella norma, che ora ha fatto aumentare sensibilmente il numero delle professioniste, poi ci sono tante e sono brave, presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate, mi ha fatto cambiare idea. Nel senso che avevo dei dubbi, ma dei dubbi legati al fatto che è vero che i partiti, se vogliono, possono cambiarle, però è anche vero che alla fine... I partiti non lo fanno, lo fanno con grande difficoltà, il PD l'ha fatto. Come finirà secondo lei? Lei è favorevole, insomma? No, io la voto perché sono convinto che sia un grimaldello per far saltare vecchi tabù. E vediamo, non so come finirà perché mi pare regga ancora l'asse Verdini-Renzi, vediamo. Verdini-Renzi, lei lo dice quasi con sospirando, le dà fastidio quest'asse Verdini-Renzi, diciamo la verità. No, è la natura dell'accordo che poi ha portato Berlusconi e Lazzareno. Cioè, se non ci fosse, penso però che fare un accordo sulla legge elettorale ampio ha senso se tu cambi la storia del paese, se invece cambi il porcellum in peggio, rischi di non solo non far bene, ma di danneggiare anche la comunità politica che rappresenta. Ma in peggio lei che cosa dice? Perché si limita a questa cosa della Camera, che per me è una follia, una cosa assurda, perché si aspetta la riforma del Senato, o proprio non le piace questo tipo di riforma elettorale? Io penso che tutti gli italiani vogliono una legge elettorale, vogliono intanto che le leggi si facciano velocemente, quindi vogliono il monocameralismo. Ora, indipendentemente dal ruolo del Senato, che può cambiare funzione, tutti noi vogliamo che le decisioni quando vengono prese poi si trasformino in atti, infatti, come accade in tutti gli altri paesi del mondo. E questo però aspetto richiede una riforma costituzionale che va fatta. Questi qua la vogliono fare, però dicono, non è sì, che... Però se noi facciamo una legge elettorale nella quale trasformiamo le liste bloccate lunghe in liste bloccate corte. E non consentiamo il raggiungimento dei risultati a cui abbiamo sempre ambito, sì. Cioè una rappresentanza adeguata di chi crede in un progetto politico come quello del centro-sinistra o del centro-destra. È perché di fatto le coalizioni vengono mangiate da un unico partito. Ieri è stato dato il via libera alle liste civetta, emendamenti... Cioè lei conferma che così com'è non la vota questa legge? Guardi, io spero che entro lunedì il vertice del mio partito possa cambiare idea su... Sulle preferenze innanzitutto, su o primarie obbligatorie per legge, pari però... di genere e mi auguro che questo pastrocchio a cui ha fatto riferimento lei, che se dovesse esserci una crisi di governo ci ritroviamo, andiamo al voto con una legge e come si fa a ovviare a questo pastrocchio? E come si fa? Con un'altra legge elettorale, ma come si fa a ovviare a questo pastrocchio? Bisognerebbe applicarla pure per il Senato questa roba qua? No, bisognerebbe avere la certezza che le riforme costituzionali si iniziano e si finiscono. Ma quella, la certezza, come la certezza poggia sull'asse del patto del Nazareno, lei converrà con me che visti l'esperienza degli ultimi 20 anni è un asse in questo momento abbastanza pericoloso. Però devo dire la verità, in questo momento l'asse più traballante non è quello di Forza Italia, cioè, loro dicono che rispettano, è dall'altra parte che ci sono un po' di sommovimenti, questo bisogna dirlo. Italia, cioè siete voi che siete divisi, Forza Italia è sempre stato così, Forza Italia non ha mai avuto problemi da questo punto di vista. Sa, il PD è una comunità politica fatta da... Ma senza Verdini, secondo lei senza Verdini questo governo cade, secondo lei? Se Verdini, per dire Forza Italia, naturalmente. Comunque... No, guardi, io non penso. Verdini fa il suo lavoro, lo fa bene. No, ma è uno degli azionisti, è uno degli azionisti nascosti di questo governo? Non lo so, guardi, confesso che non lo so. Di certo io avrei preferito una legge elettorale fatta con la stessa maggioranza di governo, perché questo avrebbe garantito omogeneità. Però Parenzo, devo dire la verità, Boccia è passato dall'aver votato Renzi alle primarie. A proposito, conferma che se n'è pentito? Certo, sì, l'ho anche detto, ma perché, come ho già detto in assemblee pubbliche, perché cose non le dico ai media prima di non averle dette nel mio partito, nelle assemblee, nei luoghi in cui è giusto esprimere. Cioè è stata una grande delusione, si può dire che è stata una grande delusione? Come tanti altri, per cambiare la sinistra italiana, per modernizzarla, per far sì che diventasse quella che in tanti hanno sperato in questi anni diventasse. Ed è stata una grande delusione per adesso, Renzi, grandissima delusione? Il giorno dopo essere stato eletto non ha pensato alla sinistra, ha pensato ad andare al governo con il meccanismo. Secondo lei, un attimo Parenzo, secondo lei che è stato ed è ancora molto vicino immagino ad Enrico Letta, ha reagito anche in maniera troppo calma Letta? Lei avrebbe reagito in maniera diversa rispetto a questa cosa? Ma dove sta adesso? È un per esempio? Gentiluomo. Ma dov'è adesso? Cioè un gentiluomo rispetto a Renzi, dice lei? No, guardi, un gentiluomo, ognuno ha il suo stile, no? Com'era la storia? Ognuno ha... E lo stile di Renzi qual è? No, ma Renzi è una... Qualcuno l'ha soprannominato? Della natura. Un canaro, uno che mangia determinato. Tutto. Io ho creduto che volesse cambiare la sinistra italiana. E invece? Al momento mi pare che abbia cambiato il governo. Cioè no, vuole cambiato il governo. Voleva cambiata. Doveva cambiare la sinistra italiana, invece per adesso è cambiato solo governo. Cambiato il governo, io ovviamente guardi, sarò leale, sono un militante del PD. Vabbè, questo è chiaro. Ero in maggioranza quando ho votato al congresso, penso di non esserlo e ritengo. Ma se lei, le mie idee non coincidono con la maggioranza del partito, sosterrò il partito, il governo, quando risolve i problemi delle persone, quando ci sono cose che non vanno, come quelle che sto vedendo in queste ore, in questi giorni. Sulla legge elettorale. Sulla legge elettorale no, ma questo qua va benissimo. Cercherò di far prevalere le mie ragioni. Però scusi, Boccia, quando ormai Renzi parla, no, lei ci crede? Perché qui c'è un problema, no, dopo quello che è successo a Letta, cioè il problema del contrasto tra quello che uno dice e poi quello che uno fa, o no? Quando se ne è accorto? No, che ne so, io no, è lei che doveva accorgersi del primo, non io. Ha ragione, io più che dire ho sbagliato, cos'altro devo fare? No, nel senso che ormai è poco credibile quello che dice, secondo lei? Cioè bisogna verificarlo bene? No, guardi, che quando si governa, quando si hanno responsabilità che devono ad un certo punto no, ma rispondere prima, ad azioni e fatti, si è sempre sotto esame. Quando si fa propaganda quando si fa una campagna elettorale, congressuale, si possono dire una serie di cose e poi si è giudicato da quello che farai. Quando cioè, voglio dire, diciamo la verità, è uno di quelli che ha fatto dimettere sua moglie, adesso non voglio metterla sul piano personale, però un po' sì, è stato... Diciamo la grazia di non entrare. No, però voglio dire, no, su questa cosa qui, no, ma non è perché riguarda sua moglie, in parte però sì. Cioè, siccome prima di diventare capo del governo sulla questione degli indagati è stato molto duro, no? È stato molto duro. Indagati, che tanto sua moglie non era nemmeno indagata, e su quelli che avevano delle posizioni, e anche nei confronti dell'ex ministro dell'agricoltura, insomma, non è andato, anche se non in maniera esplicita, insomma, ci è andato giù pesante. Beh, mo adesso perché. Lei si difende da sola, no, e anche bene. Ho capito, però... In questa vicenda ognuno può giudicare quello. Lei come la giudica? È una cosa che non dimentica nei suoi rapporti con Renzi, come lui, no, si è comportato con sua moglie o no? Di questa vicenda non parlo, non mi tirerà una parola su questa vicenda perché è valutabile ed è giudicabile. No, ma secondo lei come si è comportato nei confronti di sua moglie, Renzi? Si è comportato come ha ritenuto... Cioè, in maniera cinica. Il segretario del Partito Democratico. Ora continua a fare il segretario del Partito Democratico. Cioè, non mi vuole dire che si è comportato in maniera cinica nei confronti. Cioè, adesso perché non fa dimettere? Perché non fa dimettere i quattro indagati? Prima li avrebbe fatto dimettere. Da... Lo chiede a lui, lo chiami e risponde come rispondo io. E lo chiedo. Cioè, prima ha contribuito alle dimissioni di un ministro, ha contribuito in maniera importante alle dimissioni di un ministro che non era nemmeno indagato. Adesso ci sono degli indagati anche nel Partito Democratico che non si. Anche con? Anche con la Cancellieri. Anche con la Cancellieri, certo. Parenzo, ci sei? Sì, volevo poi, dopo la cicletta, volevo dire una cosa a un amico Boccia. Leggo che i renziani sono allergici alla satira perché Anzaldi, che è un bravissimo deputato del PD, Michele Anzaldi. Sì, si è arrabbiato per la cosa della Boschi. No, ha scritto una lettera alla signora Tarantola chiedendo se quella roba lì è servizio pubblico del ministro della Boschi. Ora Boccia, dica qua, una volta il centro-sinistra difendeva la satira, no? Non è che avrebbe preso carta pena. Ma e adesso c'è il minculpo a protezione di Renzi. Dai, un attimo solo che abbiamo la pubblicità. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito. La voglia c'è. Allora ragazzi, qui lo citava prima Parenzo, siamo di fronte a una cosa abbastanza clamorosa. C'è Michele Anzaldi, che è un deputato l'ho appena detto. Sì, sì, sto dicendo, l'ho detto prima Parenzo, se non mi ascolti segretario della commissione. Sì, stai calmo, mi fai parlare, cazzo. Sì, parla, dai. Voglio poi passarti l'archeologo però perché... Allora, Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, segretario della commissione di vigilanza RAI, ha scritto una lettera al presidente della RAI Tarantola per l'imitazione della Boschi. Io vorrei leggervi alcune parole perché sono sorprendenti, cioè al confronto, a parte che Brunetta queste cose non l'ha mai fatte, bravo, ma un deputato prono a Berlusconi dell'ex PDL di Forza Italia è un campione della libertà di informazione e di satira, è un campione assoluto. Sentite. Gentile Presidente, mi permetto di chiederle se condivide l'imitazione di Mariana Boschi a Ballarò e se ritiene opportuno che un ministro giovane, che finora ha dimostrato preparazione e capacità, ma quando mai? Fino adesso non ha dimostrato una mazza, scusi Anzaldi, aggiungo io, si è ritratta come una scaltra ammaliatrice che conta solo sul suo essere affascinante. È questa l'immagine che il servizio pubblico della RAI e RAI 3 in particolare vuole dare alla vigilia dell'8 marzo, scrive Anzaldi, e già ci sarebbe da chiamare non un'ambulanza, 4 ambulanze per Anzaldi, 4 ambulanze. Una colpa essere affascinante, questo potrebbe essere, diciamo, no? No, lo scrive lui, anzi. Da alcuni giorni il sito della RAI, seguito da altri portali di informazione, rilancia l'imitazione che Virginia Raffaele ha fatto del ministro Boschi a Ballarò. La titolare dei rapporti con il Parlamento viene ritratta come una ragazza molto attraente, in grado di stordire l'interlocutore per la sua apparenza fisica e non per quello che dice. Normalmente la satira, secondo la definizione fatta proprio anche dalla Cassazione, cita pure la Cassazione Anzaldi, no? Punta a castigare ridendo mores, ovvero a mettere in risalto in maniera comica caratteristiche esecrabili e discutibili di un personaggio pubblico. In questo caso la colpa del ministro sarebbe quella di essere affascinante? Dice Anzaldi che ci crede pure alle stronzate che dice, capito? È una cosa impressionante. Ma tu lo conosci questo Anzaldi? Non era uno che lavorava con Rutelli? Sì. Ma anche con Beltroni. La stessa imitatrice. È una persona intelligente. No, ma appunto mi sorprende. La stessa imitatrice, in alcune interviste, dice di aver voluto rappresentare il ministro Boschi come una ragazza preparata e bella. Il risultato, però, per usare la parola della Raffaele, è di una ammaliatrice che ripete a memoria i soliti pochi concetti e in caso di difficoltà si serve della sua fisicità per convincere l'interlocutore. Si fatica a capire da quali elementi si sia arrivati a trasformare il ministro in una specie di sirena incantatrice che utilizza i simboli dello Stato nella loro più alta espressione visiva, la bandiera, l'ufficio in Parlamento, per sedurre gli interlocutori e fare il gioco delle tre carte come un qualsiasi truffatore. Cioè, ma veramente gli ha dato di testa, cioè, gli è partito l'embolo a Ansaldi, eh? Una cosa incredibile. Ma sentiamolo un po' a questo punto, ce l'abbiamo? Imitation, Raffaele? No, non ce l'abbiamo. Vabbè, mandiamo qualsiasi pezzo, dai. Adesso arriva, eh? Non arriva? Arriva, non arriva, arriva. Mi hanno detto, però è troppo maschilista come visione, perché lei, quella persona, è bella e stupida. E invece no, perché comunque io l'ho fatta bella, perché lei è una bella ragazza. Preparata, perché è preparata. La voglia ce l'ho. Non mi mordere il dito. Questa è la Raffaele che si spiega, eh? Giuseppe da Milano. Oh, Cuciani? Sì. Senta, volevo intervenire per quanto riguarda Pompei. Sì, dimmi. Niente, praticamente secondo me Pompei andrebbe strappata dalle mani dei beni culturali e data ai privati. Assolutamente d'accordo. Totalmente, perché ci sono stato quest'estate e... cioè, c'è un degrado assoluto, bottiglie, spazzatura. Ma i 500 dipendenti dov'è che erano? Ah, praticamente c'erano solo i venditori, quelli abusivi, che vendevano calzini, vendevano lattine, ti vendevano altre robe, e i dipendenti non ce n'era uno che controllava. Tutti assenti. Non lo so, magari erano tutti malattia, perché da quelle parti lì c'è l'abitudine di... Ma io sono d'accordo con lei, cioè è irrecuperabile se viene lasciato al pubblico, in particolare se resta in quelle zone lì. Irrecuperabile, totalmente irrecuperabile, questa è la mia idea. Poi i nostri sogni di una Pompei affidata ai privati, trasformata all'americana in un grandissimo sistema di affari e di business, purtroppo non si realizzeranno mai. Purtroppo non si realizzeranno mai. Allora, stavamo parlando con Francesco? No, non stiamo parlando con nessuno. Ennio da Milano. Ennio, dica. Antonio, Milano. Antonio. Mi sente? Sì, la sento. Ok. Niente, volevo intervenire per quanto riguarda... Io sarei un rappresentante di quei parassiti di cui parlava lei prima. Cioè, chi sarebbero? Un terrone. No, ma io non ho parlato così, lei si sbaglia, non ho affatto detto questo, no, io. Non ho affatto detto che i terroni, no, a parte che non ho utilizzato, non ho utilizzato la parola terroni. Lo dico io terrone, lei dice cazzo, lei dice tante... No, ma lei può dirlo, ma io non sto dicendo che lei non può dirlo, non sto dicendo che lei non può dirlo. Posso parlare Cusani oppure continua lei? No, ma a parte che mi chiamo Cruciani, non Cusani, primo, quell'altro era una... Cruciani. Sì, Antonio, no, Cusani, scusi. non glielo auguro. No, perché non ha fatto nulla di particolarmente grave, non è mica un omicida, ha commesso un errore, ha pagato. Certo, torniamo sul nostro... Ma non ho capito, io non ho affatto detto i terroni sono parassiti, non ho utilizzato questa parola. Quelli del sud sono dei parassiti. Ma non ho affatto detto questo, ho detto quelli che... No, quelli che... Gli abusivi, quelli che stanno là, non pagano i treni, non pagano le tasse. C'è la registrazione, caro Cruciani. Vabbè, io ho detto così, ha ragione lei. Vada avanti, allora, vada avanti, tranquillo, vada avanti, okay. Su. Tanto vuole avere ragione per forza, per cui vada. No, dalle nostre parti, in Terroni si dice che la ragione è dei... Va bene, allora, se vuole avere ragione, che io ho detto i terroni sono dei parassiti, tutti quelli del sud sono parassiti. Lei può soltanto riascoltarsi. Io non ho detto questo, questa è l'interpretazione autentica. Non ho detto questo, punto e basta. Lei si riascolta. Ma no, io mi posso riascoltare anche 200 volte. Non ho detto tutti quelli del sud sono parassiti, chiaro? Se non comprende, vada avanti, vada avanti, così è contento. Vada avanti, perfetto, è contento. Perfetto. Volevo fare l'esempio dell'effetto domino. Quando lei parla di parassiti, sì, lei ha presente l'effetto domino? Ci sono dei parassiti perché prima è successo qualcosa. Sì. Lei nella radio di Confindustria, sì, e probabilmente se fallisce un'azienda ci sono dei parassiti. Sì. Dei parassiti che pur di non commettere reati clamorosi, magari come il Cusani di cui parlava lei prima, a cui faceva riferimento lei, sì, prima. Io non so di che sta parlando lei, francamente non so di che sta parlando, però vado avanti. Lei si divertiva con il suo caro Parenzo a cercare i venditori di calzini, ok? Sì. Si è chiesto per quale motivo quel parassita, come lo considera lei? Sì. è su quel treno? A parte che scherzavo, a parte che scherzavo, lei, voi non distinguete bene due aspetti, non distinguete lei, due aspetti. Ma lei, lei decide quando e come vuole, quando e come vuole scherzare. Beh, non c'è dubbio, è ancora consentito questo qua, se, cioè non è lei a decidere come e quando persone. Io scherzo su quello che mi pare, ha capito o no? Non sulla pelle io persone, scherzo su quello che mi pare, ha capito o no? Non si agiti, ma non si è lei che decide quando scherzo. Non è no, lei che decide quando scherzo. Chiaro? Io le consiglio, nella chiaro? Chiaro? Di non parlare delle, di queste cose, di definire. Di non è lei che persone, decide quello che dico e quello che non dico. Chiaro? Non è lei persone che decide che quello che dico e quello che non dico. E le posso dire che, e lei lo sa benissimo in quanto giornalista, vabbè, ed aggiornato, le posso dire che a pochi chilometri da Napoli, sì, pochi giorni fa, una persona si è tolta la vita perché ha dovuto per 2000 euro. Ma che c'entra euro, questo? Di cosa c'entra questo? Scusi. È una conseguenza del divenire parassiti, caro Cruciani. I parassiti di cui lei parla, ed è la radio di Confindustria, Cruciani, lei parla nella radio di Confindustria. Io la seguo tutte le sere. Ma cosa c'entra questo? Ma lei non può chiamare parassiti così, utilizzare la parola parassiti. Io l'ho utilizzato per chi vende i calzini dentro i treni, caro Cruciani, senza pagare ovviamente le tasse, senza pagare i treni, eccetera, eccetera. Per i cosiddetti abusivi. A me mi fanno schifo gli abusivi. Sarà possibile che mi facciano schifo gli abusivi o no? Sarà consentito o no? Allora, punto e basta, dai, forza. Ma lei. Mi fanno schifo gli abusivi. Se lei va bene invece l'abusivismo, quelli che non pagano le tasse, quelli che salgono sui treni a sbafo, quelli che vendono le bibite di notte rompendo i coglioni alla gente guadagnando in nero, se a lei piacciono queste persone qui, ma si accomodi pure, faccia pure, se le piace così, come diceva Parenzo una volta, vada, se le piacciono i parassiti di questo tipo, se le piacciono quelli che vivono a UFO a sbafo, vada, ma io non mi sto alterando, parlo così di natura, capito? Certo, io l'ascolto tutte le sere, lo so. Io non voglio azzannarlo, ok? Perché ma no, ma lei può anche, deve, ma deve. Ma no, lo so che le fa comodo. Ma lo so ma che comodo, le fa comodo. Che vuol dire comodo? Lo so, perché la trasmissione è viene gestita così. Però le posso dire che se la polizia ferroviaria non interviene in quella circostanza... Ma non intervengono per pietà, perché li lasciano campare, no? No, per pietà. Perché appunto, li lasciano campare. È per una questione politica. È per una questione ma politica. Ma li lasciano campare, perché c'è sempre una protezione del sommerso in Italia, no? Bravissimo. Non c'è la protezione del sommerso. Ma è la secondaria. Guardi, se lei mi vuole portare su un terreno di discussione su cose, io sono capacissimo di farlo, ma noi prima stavamo giocando con quel venditore di calzini. No, Cruciani, lei non può giocare e chiamare le persone parassiti. Ma io gioco quando mi pare. Ma non è lei che mi dice quello sulle cose su cui devo giocare oppure no, ma lo vuole capire come concetto, lo vuole entrare nel cervello oppure no? Se lei non le entra nel cervello, io scherzo su tutto, anche su cose serissime, ha capito? Assolutamente. E allora, punto e basta, Antonio, io le voglio bene, però... La invito soltanto a considerare il fatto che quella persona che è divenuta parassita, gli è successo qualcosa probabilmente. Vabbè, lì, ma okay? Adesso io questo non lo so, lasciamo perdere il caso singolo, non lo so. Io sto dicendo, in generale, in Italia c'è una tolleranza. Ma lei ha mai visto in un treno tedesco uno che vende bibite, che sale sul treno senza niente da fare? Ha sentito? Non esistono queste persone. Non esiste. Basta, punto e basta, punto. Le sto dicendo, le sto dando ragione. Ma perché si vuole rassegnare di fronte a questa cosa qua? Perché lei si vuole rassegnare di fronte al fatto che sui treni salgono gente che non paga, che vende bibite in maniera abusiva? Perché si vuole rassegnare? Io non mi rassegno. Ho focalizzato l'attenzione del mio intervento su una cosa sbagliata. Su parassita, assolutamente no. L'ho invitato fin dall'inizio a risentire. L'abbraccio, devo dare la linea alla pubblicità perché noi con la pubblicità campiamo. Grazie. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Una parola d'uma di te. Daniele, provincia di Pistoia, mi segnalano che in realtà le proteste di questo deputato del Partito Democratico, Anzaldi, che lavora nella commissione di vigilanza RAI, cosa che andrebbe abolita immediatamente, e non si sono sentite quando qualche settimana fa la signora Raffaele, non so se su Rai 3 però è sulla Rai oppure no, perché questo bisogna valutare, ma mi dicono sulla Rai, ha imitato la Pascale con degli stereotipi sul pronuncia napoletana, eccetera eccetera, che certo non erano, come dire, meno offensivi da un certo punto di vista, dal suo punto di vista, rispetto alla Boschi. Eppure nessuno ha parlato. Adesso, siccome viene toccata la Boschi, che poi non è stata toccata per niente, perché tutte queste imitazioni portano consenso alla signora Boschi, portano fortune elettorali. Ricomincia Raffaele Pascale. Sicuramente avrete letto i giornali e lo sapete che finalmente io e il mio ragazzo abbiamo deciso finalmente di convolare a nozze. Perché è anche tanto che stiamo insieme, ormai saranno più o meno quante, 4 trapianti saranno. Quindi insomma è tanto che stiamo insieme. Poi finalmente adesso sei divorziato da quella lì, capito? Quella lì che ci è costata, non ci è costata poco, eh? Quella ci è costata 1,5 milioni di euro al mese. E quella ci costa più di De Gregorio, scusa. Allora però, quella se voleva spendere 20 milioni l'anno si sposava Equitalia, capito? Basta una risata però! Per me è stupendo, cioè è meraviglioso, il non plus ultra di tutto. Però, signor Anzaldi, esponenti del Partito Democratico, non rompete le balle al signor Raffaele semplicemente perché ha fatto un'imitazione molto, molto, molto soft della Boschi. Molto, molto soft. Ma Boccia è là ancora? No, non c'è. Perché l'hai mandato via? Io non mando via nessuno, io non voglio più nessuno. E non voglio manco te fra poco che mi rompi i coglioni con sto treno. No, finalmente mi libero di te. No, finalmente ti liberi, perché se non trasmetti in maniera normale ti mando a fare in culo. Finalmente. Sì, ma bravo, guarda, allora dimettiti domani mattina così non mi rompi i coglioni. Prendo una lunga vacanza. Vai, prendi una lunga vacanza così ti sta bene. Tieni la provincia di Pistoia, resta a fare solo così Matrix. Posso parlare degli archeologi, posso vai. Parlare di prendi cultura. Prendi una lunghissima vacanza, prenditi da qui alla fine di luglio. Cose. Sì, vai, vattene solo a Matrix. Cose alte. Vai. Daniele alte. Dalla provincia di Pistoia. A me mi basta che sei collegato in maniera normale, non sul treno che non si capisce una sega. Daniele, provincia di Pistoia, dai. Forza. Ciao. Dimmi. Senti, io voglio intervenire sul fatto di quel deputato del PD che diceva del figlio, se lo massacrassero cosa farebbe. Sì, e ha perfettamente ragione che perché tutti sono ipocriti, ma tutti farebbero uguale a lui, come ha detto. Sì, guardi, il punto è molto semplice, ognuno può fare quello che vuole, anche andare in galera per ammazzare l'assassino del figlio, per carità. Poi però passa 30 anni in galera anche lui, minimo, Va bene, nulla, nel senso che ha dolore, somma altro dolore. Con quale soddisfazione? Con quale soddisfazione? Di avere portato di avere mandato al camposanto l'assassino del figlio? Ma non lo so, ma io non mi pongo questo problema, ovviamente. Ma guardi, non so, lei ha figli, penso, sì. Sì, ho una figlia di 8 anni e qualche mese. Dunque? Però se ammazzano un figlio, lei dopo è morto. Ma non lo so, d'accordo, siamo tutti d'accordo ed è banale dirlo. A parte che io non avrei la forza di ammazzare un'altra persona, le dico la verità. Certo. Non lo posso però dire adesso. Sono pochi quelli che dicono che non farebbero niente e andrebbero dietro la giustizia. In ogni caso, quello è un senatore della Repubblica, una posizione diversa dalla mia, capito? No. Certo, quello siamo d'accordo. Ah, una cosa devo dire prima di realtà. Mi dica, caro Daniele. Che Cruciani è un bel ciupa ciupa, Non ho capito, io sono un bel? No, non Cruciani, scusa, Parenzo è un bel ciupa ciupa. Cioè in che senso? Perché quando sente politici cambia subito voce. No, ma non è vero, non è detto. Non è vero. Ok, buonasera. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. È una cosa indegna la sua trasmissione. Perfetto su di me, ai, mi ha beccato. Gratta, ma peso è. Vabbè, Paolo Firenze, dai. Buonasera. Dica. Una notazione telegrafica. Voi giustamente vi stupite della reazione del parlamentare del PD alla satira contro la Boschi. Perché effettivamente non è mai stata la posizione del PD, ma questo per chi avesse frequentato un po' Firenze, si fosse preso la briga di fare di Renzi prima dell'uomo della provvidenza, di farne l'uomo della provvidenza, vedere un po' cosa c'era dietro lo schermo, è lo stile dei renziani, è lo stile che loro hanno adottato nella gestione del comune, della provincia prima, nei rapporti con chiunque li ha affiancati, o si è opposto o ha semplicemente provato a dire che il re è nudo, insomma. Ma non ho capito a cosa si riferisce, a questo Anzaldi? Sì, Anzaldi. Cioè, a questo del PD che ha detto in maniera indecorosa la satira, che poi fino a pochi mesi fa era... No, ma protesta col presidente della RAI, cioè una roba incredibile. Protesta addirittura col presidente della RAI, addirittura un atto ufficiale, non è che ha fatto. Ma uno non c'ha niente da fare dalla mattina alla sera che non, esatto, compilare una cosa per protestare contro un'imitazione fatta durante una trasmissione televisiva. Ma è roba da pazzi. Sono perfettamente Nicola da Padova. Sì, ma non so se è lo stile di tutti quelli che non c'hanno nulla da fare, non c'hanno niente da fare durante il giorno, se non pensare all'imitazione da Raffaele, dai. Nicola Padova. Buonasera Cruciani, beh, intanto sono assolutamente d'accordo con lei sull'abusivismo che sia edilizio, commerciale, è una concorrenza sleale che sta veramente minando la nostra economia. Io lavoro per un'azienda tedesca e da noi sarebbe inammissibile una cosa del genere. Però volevo intervenire per quanto riguarda le quote rosa. Allora, io fondamentalmente sono d'accordo nella presenza del sesso poi debole, che potrebbe essere anche il sesso maschile, minor rappresentato, nelle istituzioni e anche nelle aziende. Però io sono uno dei candidati alle prossime elezioni comunali in un piccolo comune di Padova, anzi neanche tanto piccolo, e noi abbiamo la candidata sindaca donna, però non le nascondo che abbiamo fatto difficoltà a trovare un numero sufficiente di donne che entrasse nella lista che abbiamo candidato. Ma questo per loro volontà però, mica perché... Sì, assolutamente, ma guarda, allora, che all'interno del movimento abbiamo delle donne molto valide, addirittura, insomma, ripeto, la candidata è donna, però un numero sufficiente è stato difficile trovarlo, ecco. Quindi... Ho capito, ma perché non... Cioè, non è mica un obbligo fare politica, per no, una... infatti, però ecco, ma io pur essendo favorevole alle quote rosa, riconosco, come dice lei, che è un problema quello, perché si mette un tetto, un limite, che poi alle volte non si riesce neanche a raggiungere, quindi mette in crisi anche, in questo caso, la costruzione di una lista. Ecco. Va bene, grazie. Sara, bene, Torino. Grazie. Sara, Torino. Le poveracce devono fare di tutto, non è che possono fare politica. Che è successo, anche scusi? Dire. Che è successo? Buonasera. Buonasera. Senta, io intervengo perché lei ha parlato di quello dei calzini sul treno che li vende. Sì. Benedetta creatura. Esatto. In Germania, carissimo Cruciani, c'è il salario disoccupati, lo sapeva questo? Vabbè, esistono tante... Nel nostro cazzo di paese, dove Daniele buonanima a tutti gli altri disgraziati di ladroni sono andati negli altri paesi per pagarli di meno a impiantare le fabbrichette e speculare, non c'è un salario disoccupato. Hanno fatto benissimo, ad andare in un altro paese le aziende, perché il costo del lavoro... Peccato che siamo nel mondo globalizzato di merda, per cui c'è gente che vive ai limiti dell'impensabile, che vanno a raccattare le borse della spesa dai parroci. Purtroppo è così, è il capitalismo, è l'Occidente, bellezza. Bellissimo, bellissimo. E con questo lei... Ma lei dove vive? Dove vive lei? Dove vive lei? In quale mondo vive? Io vivo a Torino. In quale mondo vive? Una vicina di casa che è senza pensione, né lei né il marito. Vabbè, quello tutti che c'entra. Tutti invalidi e mezzi malati, però col calcio che li aiutano. Scusi, questi non c'hanno la pensione, sono validi, ho capito, questo è un caso limite però, abbia pazienza. No, un caso limite, un par di balle. Ma no, è un caso limite, no, non si preoccupi. Perché adesso lei ci ha parlato, non è sufficiente. Ci ha parlato di due persone estremamente sfigate, detto in termine, ho capito, non può essere il prototipo di tutto quello che accade, no? No, certo che no. E allora? Però comunque, andiamo, tornando a quello dei calzini sul treno, che vende i calzini abusivamente, o tutti gli altri abusivi che ci sono in questo amica di merda, non c'è un salario disoccupati, va bene questo? E siamo nel 2014. Ma perché devo dare uno stipendio disoccupato a uno che vende i calzini sul treno? Allora, i lombardi che si sono fottuti 3 milioni di euro, che l'ho sentito ieri per radio. Ma cosa? Sui rimborsi? 60 indagati fra... E vabbè, se quelli sono... Company, se quelli sono... Sbatterli contro le pareti. Anche il suo bel Berlusconi, il frodatore di primo ordine, caccia tutto quello che hai rubato e dopo vedi come vai via gobbo, pezzo di merda, capito come? Ma lei quanti anni ha? Signora Sara, quanti anni ha, signora Sara? Ne ho tanti e sentivo Sant'Almassi. Continuo a sentire letto che c'è mio marito che è innamorato, e cosa vuol che le dica? Starà diventando frocio, non lo so, come, visto che ne parlate sempre. Comunque, perché le donne bistrattate, a lei non piacciono i gay, 4 giorni l'anno, a lei non piacciono i gay, signora Sara, no? No, io dico, ciulatevi come volete, purché non rompiate i coglioni. Ecco, cioè, in che senso, scusi? Essere tollerante e libero in casa sua, ma non sbandierate le cose, perché è pure omofoba, signora. È pure a favore dei poveri, però omofoba, capito? È omofoba? No, basta che non mi rompano i coglioni, dice lei, no? Ma no, Perché devono esibirsi in pubblico? Ma perché mi voglio mettere le piume, voglio tirare fuori l'uccello al Gay Pride. Qual no. è il problema, signora Sara? A parte che nessuno si tira fuori l'uccello al Gay Pride. Primo, allora, signora Sara, se io voglio esibire la mia omosessualità, come lei esibisce, come lei esibisce le sue stronzate, io voglio esibire la mia omosessualità. Ma le mie stronzate le ho esibite purtroppo per anni. E allora? Se vedo lettere al Presidente della Repubblica, che naturalmente sarà state certificate. Ma l'avranno presa per matta, sicuramente. Ma naturale, ma normale, no. Massimo, poveretto che c'entra Sant'Tommaso? Gli ho dato una mazzata tremenda, che è andato via prima per colpa mia, anche perché gli scrivevo tutti i giorni. Ma che colpa sua, signora? Ma lei è mitomane, cioè pensa di avere... No, non è mitomane. È totalmente mitomane. Però c'è da dire una cosa, caro mitomane, che lei, non io. Il buon Giancarlo Sant'Almasi. Mi passi suo marito, mi passi suo marito subito. No, sì, mi passi suo marito. Ha una voce da donna, io da uomo. Ma quanti anni avete? Scusa, quanti anni avete tutti e due? Tanti, io 69 e lui 72. Adesso glielo passo. Fate ancora un po' di sesso? No, assolutamente. Da quanti anni? Siamo inglesi. Da quanti anni? Da tutta la vita, glielo passo. Cioè, da quant'è che non concludete lì? Lei mi piace molto, ma per carità, non pensiamo ai gay, Ma non ho capito. Voglio dire, mia moglie ha detto che io sono innamorato di lei. Non scherziamo, a me piacciono solo le donne e basta, Ma lei ha la voce da donna? Ma certo, ma infatti... Ma che coppia siete? Fare? Ma siete dei pervertiti totali, cioè... Ho la voce da vecchia zitella. Ma è una roba impressionante. Lei quanti anni ha? 72? Quanti anni? Bravo, ne ho 73. Ho già preparato la cassa da morte in cantina. Come si chiama lei? Mi chiamo Luigi. Luigi e Sara. Uno ha la voce. Siamo una coppia formidabile. Bisticciamo dal mattino alla sera. Però non trombate, mi sembra di capire, no? Ma cosa vuole trombare quell'età lì? Ma abbia pazienza, voglio vedere poi lei che dicono che tromba sempre, se poi alla mia età ci pensa ancora. Beh, non lo so, 72 anni. Diciamo una cosa. Sì, mi dica, cara. Se uno si va a cercare una donna per fare qualunque cosa, sono solo grane. Non so se vale la pena di fare la trombata. No, perché entrano in ballo tante altre cose, tanti altri casini. E alla fine uno diventa schiavo di una donna. Lei ha perfettamente ragione. Meno male. Luigi e Sara, siete la mia coppia preferita. Vi inviterei ogni sera in trasmissione. Comunque mi piacete molto. Comunque mi piace moltissimo anche... Sì. Come si chiama? Parenzo mi piace moltissimo. Però anche lui deve calmarsi un po' qualche volta. No, ma sono io che mi devo calmare, non Parenzo, non c'entra niente. No, Luigi, ma scusi un attimo. Com'è? Da quanti anni è che voi siete nella pace dei sensi, Luigi e Sara? Questa è una cosa privata. Ma diciamo. Che privata, avete detto tante cose. Dovrei raccontare la mia storia, una storia complicata. Ci siamo sposati, abbiamo divorziato e ci siamo sposati un'altra volta. Beh, siamo al top qui. È una cosa pazzesca, no? Ma da quant'è? La pace dei sensi. Comunque sono contento che ci siamo risposati, ma che ho detto, guardi, mia moglie è una bravissima persona. Sì. No, mi dice lascia perdere, no. Non con me, con tutti gli altri. Sì. Si dà da fare in un modo pazzesco per aiutare tutte queste persone e si incazza come una bestia, perché io le assicuro che si impegna di qua e di là e tutte le istituzioni promettono, non fanno un cazzo, non fa niente nessuno. Questo, guardi, le do ragione al 100%. E non c'è niente da fare. Però io sono curioso di capire com'è che siete riusciti a sopravvivere nella pace dei sensi per tanti anni. Questo Vabbè, certo, ma scusi, anche lei, abbia pazienza, certe volte parliamo pure in un modo giusto. A volte magari non ha voglia di fare una trombata, ha voglia di andarsi a mangiare una bella pizza, per modo di dire. Ma tante volte che c'è. Ecco, questa è l'intelligenza delle persone, non come quelli che dice io ho trombato di qua, trombato di qua, e io dico poveretto, ma allora non trovi nessuna soddisfazione poi se continui a trombare. No? Lei ha ragione, però mi deve dire da quanto tempo è nella pace dei sensi. Scusa, Sara, dica. Da quanto tempo è nella pace dei sensi? Glielo voglio dire, ma quanti anni saranno? 15 anni. 15, vabbè, poco. Sì, dai. Magari, poco. Siamo stati separati per 5-6 anni, lei è andata a vivere a Sarno, è andata lì per aiutare quando c'era stata l'alluvione, quella roba lì. Ecco, siete spettacolari. Sentiva talmente tanto la mia mancanza che è rimasta lì. Siete spettacolari, vi abbraccio entrambi, Sara e Luigi. La saluto e le dico, continuate così la trasmissione. E quando qualcuno non capisce, vogliono tutti dire come deve essere la trasmissione. Anche mia moglie tira fuori Sant'Almasi. Ma Sant'Almasi era un signore, ma era una trasmissione completamente diversa. Io ti abbraccio fortissimo. A presto. Ciao. Ciao. Auguri. Ciao. Rosa, se va bene rosa. Ma poi invece sa bruciare proprio addosso a me. Allora arrivati al momento, siamo arrivati al momento decisivo, caro Parenzo. Le NEC nominations. Ci tocca cantare una piccola strofa di una canzone di NEC ed annunciare il prossimo, la catena di Sant'Antonio. Io non so quanto verrà rispettata questa roba, non so quanto verrà rispettata alla fine questa roba. Speriamo che quelli che noi nomineremo poi ci seguiranno. Noi ci sottoponiamo a questa follia, a questa tortura, lo dico subito, per me è una tortura pazzesca, però chiamati in causa dal trio Medusa, in primis da Paoletta, Radio Italia e da altri colleghi, come si dice, da altri speakers. No, ma mi fa cagare la parola colleghi, non perché non li consideri, per carità. Beh, assolutamente. Anche per loro tu, Sì, no, può darsi, ma non per loro, mi è proprio la parola, c'è altri speakers, prestigiosi speakers radiofonici. Lo faremo. Vabbè, cos'è che ha detto Paoletta? Mi sembra, chiamiamo un po', mandiamo questa roba qua. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Anche noi dobbiamo fare delle nomination. Chi? Dobbiamo nominare altri due conduttori di altre radio. Allora, noi, rullo di tamburi, nominiamo Federico l'olandese volante di R101 e Giuseppe Cruciani e David Parenzo di Radio 24. No. Yeah. No. Ciao Gabriele, ciao Furio, ciao. Cruciani, a questo punto Radio 24 deve rispondere alla chiamata della nomination di Paoletta. Tanto peggio di Paoletta non potete fare, ragazzi. Allora, prima era Paoletta e poi il trio Medusa, Radio Italia, Radio DJ. Dobbiamo rispondere per forza, io poi di fronte a queste cose non mi sottraggo. Ho perso il testo io, mannaggia. Vabbè, ma vai a fare in culo, tu e il testo, vai, te lo dicono tutti in coro da dietro il vetro. Dite tutti in coro da dietro il vetro. Vai a fare in culo, tutti quanti. Mi piacerebbe andare a fare in culo. Allora, in corda, dietro il vetro, ti stanno dicendo in tre persone. Hai aumentato la volgarità. No, non è aumentata la volgarità, è aumentata un'altra cosa. Hai veramente rotto il coglione. No, aspetta. Allora. Mi hai veramente rotto il coglione. Allora, lo faccio io, tanto tu sei out. No, ce l'ho qua. Ce l'hai. Aspetta un attimo, parto io. La canzone è Lascia che io sia. Parto io, tu stai zitto. Lascia che io sia Il tuo brivido più grande Non andare via Accorciamo le distanze Nelle lunghe attese tra di noi Io non ho confuso mai Braccia sconosciute con le tue. No, ragazzi, così fa cagare. Mettetemi la base normale, dai. Eccolo qua. Mettetemi la base normale, ripeto, la base normale. Io ce l'ho pronto, Lascia che io sia il tuo brivido più grande. Non andare via. Accorciamo le distanze. Nelle lunghe attese tra di noi. Io non ho confuso mai. Braccia sconosciute con le tue. Vabbè, dai, non è male questa, dai. Vai tu, pronti? Vai tu, così siamo sputtanati per sempre in tutto il globo. Riattacchiamo, vai. Lascia che io sia il tuo brivido più grande. E non andare via, non sei più così distante. Ma che cazzo vuol dire? Quello che c'è stato tra di noi, io non l'ho confuso mai. I tuoi pensieri sfiorano. Va Vabbè, siamo all'abisso, ragazzi. Cioè, Parenzo ha confuso strofe su strofe. No, cioè, ma è una roba. Basta, basta, chiudiamo. Basta, chiudiamo questa vicenda. Ho parlato con Neck. Che ti ha detto? Mi ha detto che si poteva modificare leggermente il testo. Ha detto. Hai parlato, sì, vabbè. Sì, con Neck. Franco da Milano. Franco da Milano. Ma cosa vuol dire? Ma si chiama Neck veramente? Lui ha un soprannome. Ma che ne so, Franco da Milano. Lo vuoi salutare l'archeologo che sta tornando a casa? No, no? Non me ne frega niente. Un attimo, digli, cioè, ma scusa. Ah sì, dobbiamo fare la catena di Sant'Antonio. Allora, Varin, tu... io nomino Varin. Varin di Radio Padania, sì, è sì, vero, non è male. Varin di Radio Padania. Varin di Radio Padania, sì. Varin di Radio Padania deve a questo punto intonare, sì, questa canzone. Deve una canzone napoletana, possibilmente. Io invece vado con... Varin, voglio sentire Varin. No, voglio. Io invece stupendo, io invece Varin. Dico una cosa che non succederà mai. Marco Mazzoli, re dello Zoo di 105, deve rispondere a questa catena di Sant'Antonio e deve cantare lui durante lo Zoo di 105, deve cantare una strofa di una canzone di Neck. Gli farà orrore, però lo chiamo da qui e lo deve fare. Ma di che stiamo parlando? Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, c'è tutta la notte e dorme in un tombino. Ormai è tutto degradato. Vabbè, dai ragazzi. Giampiero, provincia di Chieti, riprendiamo faticosamente. Pronto? Sì. Sì, dica. Buonasera innanzituttutto sia a lei che sì, sì, vada. No, volevo soltanto dire una cosa per quanto riguarda quello che ha detto il senatore Esposito, se non sbaglio, riguardo a quello che ha trucidato, insomma, quel bambino. Sì, ha detto che se ammazzassero suo figlio andrebbe ad ammazzare questa persona. Ma io lo lascerei in carcere una ventina d'anni a subire le peggio torture, perché la legge. Ma che vuol dire? Non è prevista la tortura, Giampiero? Non è, lo so che non è prevista, però la legge del carcere nel senso tra gli altri pregiudicati. Cioè viene trattato sicuramente male, viene preso anche, cioè viene preso, gli si fa le urine sulla faccia mentre viene inginocchiato. Vabbè, ho capito, Giampiero, lei si augura che un assassino di un bambino subisca torture in carcere, comprese l'urina sulla faccia. Ma di che stiamo parlando? Ma veramente di che stiamo parlando? Cosa deve, ma deve stare in galera appunto senza essere torturato. Se lei si augura che uno venga torturato in carcere, se ne vada in Uganda, abbia pazienza, se ne vada in Uganda. Il problema nel carcere italiano esiste, cioè questo. Chi tocca bambini e donne? Vabbè, ma esiste, se esiste non dovrebbe esistere, cioè, lei dice esiste, secondo me la tortura in carcere non dovrebbe esistere, che poi venga tollerata è un altro discorso. Viene tollerata. E lei è contento che venga tollerata nei confronti di uno che ammazza un bambino, è contento, giusto che gli pisciano in faccia, che cosa deve meritare? Ma che vuol dire cosa deve meritare? Deve meritare di stare in... Che cosa deve fare? In cella, a vedere la TV, a guardare... No, semplicemente in galera, appunto. In galera, basta. Ma no, la TV. Che c'entra la TV? La TV in carcere ci può stare come non ci può stare, diciamo. Si chiama stato di diritto. Vabbè, è arrivato quello che... i paroloni. Ma no, quello... Ma non è che è tutto sempre pipì, popopopu. Hai un linguaggio che è quello di un bambino di 4 anni ormai. Ma io? Ma che sto dicendo? Sto dicendo esattamente quello che dici tu, senza utilizzare la parola lo stato di diritto. Scusami, sorella, hai da accendere per caso? Ma chi è? Che sorella è? È una signora di colore. Hai da accendere. Ma che c'è? Sorella? Perché la chiami sorella? Scusa. Mi sembrava una suora. Perché sorella? Scusa. Ezri? Che vuol dire Ezri? Ah, guarda che bello. Che fa di mestiere questa Ezri? Ezri è un signore. Vuoi parlare alla radio con Cruciani? Da dove arrivi tu? Da dove sei tu? Dal? Da dove? Avete cosa fare? Scusate ragazzi. No, hanno vabbè da fare, devono andare al cinema, a teatro. Gente per bene, non è come te che sta tutto. Fra sorella, ma che è sorella? Ma mica sei nero, sono... tu, sorella. Ma è molto bel linguaggio. Per Giuseppe da Monza, Giuseppe da Monza. In empatia. Giuseppe da Monza, dai. Buonasera. Buonasera, buonasera. Volevo dire che voi depravati, lei, il dottor Cruciani e il suo amico Parenzo. Ma perché io dovrei essere depravato? Scusi Giuseppe. E tutelate tutti gli interessi. Io direi che nella discussione che fate in questo momento, che stanno facendo alla Camera delle rappresentanze di genere, sì, voi dovreste tutelare che nelle liste ci dovrebbe essere un eterosessuale maschile, un eterosessuale femminile, un omosessuale maschile, un omosessuale guardi femminile. Purtroppo le devo dare ragione su questa roba qua, noi non siamo pervertiti come dice lei, anzi lo siamo, ma lo siamo, come dire, su cose che adesso ormai... nell'evolvere del degrado che lei tutela con il suo amico degrado tuteliamo? Tra 5 anni anche i transgender li metteremo dentro come il quinto e poi ma su questo lei ha ragione, ma io non vorrei né le quote rosa né le quote transgender né le quote perché lì si arriva a un certo punto, ci vogliono anche quelli con l'uccello di un certo tipo con la moda che vai adesso dovrebbero rappresentare tutta quella gente lì. Vabbè, ma lasci perdere, io non voglio né che ci siano le quote rosa, né le quote transgender, né le quote di quelli che ce l'hanno piccolo, né delle quote di quelli che ce l'hanno grande, né le quote di quelli non operati, né le quote di altri strani ancora. Non voglio niente di tutto questo, voglio che i partiti scelgano chi candidare, punto. Uomini, donne, chi se ne frega. Possibilmente i più capaci. Su questo sono d'accordo. Grazie. Fabio da Roma è comunque perverso. Lei pure avrà le sue perversioni, Giuseppe, no? Magari. Avrà le sue perversioni lei o no? Oppure non le tira più? No. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha? 66, sono ormai. Beh, ancora dovrebbe. A 66 anni dovrebbe essere ancora attivo. Non le tira più? Non le tira più l'uccello? Buonasera. Vabbè, buonasera. Non risponde. Domande dirette, classiche, non risponde. Classiche, insomma, esageriamo, classiche. Beh, classiche. Marco da Milano. Ma no, intanto c'è un lavoratore che sta chiudendo l'edicola qua a Roma. Buonasera. Ma è una cosa strana. Ma, una cosa strana. Sono al telefono con la Zanzara di Cruciani. Lei e io sono Parenzo. Lei di dov'è? Io? La facciamo facendo un'inchiesta sul mondo del lavoro e gli immigrati. Ed è bello che lei, che è un immigrato, ha questa edicola bellissima a Roma. Scusa, adesso per chiudere, dopo per chiudere per parlare. Ma da dove vieni tu? Da quale paese vieni? Ma non fa, se tu fantastico. Non gli metti vicino non si capisce niente. Marco da Milano, dai, Marco. Ascolti, buonasera, io parecchie volte vi seguo e sento che parlate dei gay, dei froci, gialli, neri. Sì. Però quello che voglio dire, ma veramente ancora al giorno d'oggi si pensa che la gente sia razzista contro certi tipi di persone? Io penso che sia un discorso di insofferenza proprio naturale delle persone, ma non perché uno sia contro i gay, contro i neri, contro i gialli. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente spesso si parla, si fanno trasmissioni intere contro i gay, contro i neri, insofferenze, razzismo, ma io penso che sia una barzelletta, ecco. Cioè veramente vogliamo credere che nel 2014 la gente sia insofferente ai gay, ai neri, ma non scherziamo. Beh, ci sono delle persone che sicuramente sono insofferenti, alcuni sono sicuramente insofferenti. Servi di Roma fuori? Senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Pellegrin, senti qui cosa dice, i bambini sono meglio orfani, Padania bella e libera, dopo il blues cantato a Renzi. Battiamo le mani, facciamo un salto. Benvenuto presidente Renzi. Poveri bambini, era meglio nascessero orfani, viene da pensare con una frase molto cattiva. Sicuramente se fossero nati orfani si sarebbero risparmiati certi genitori così disgraziati, lasciatemelo dire. Io toglierei la patria, sto esagerando, è un'iperbole la mia, ma io toglierei la patria potestà a questi genitori, è vergognoso, vergognoso. Ma è Pellegrina, adesso devi esagerare. La patria potestà. Ma sai che secondo me non è che si può proprio dire tutto per forza, però, non è che si può tollerare tutto. Ma che devi fare? Vuoi far arrestare Pellegrini di Radio Padania? Ma voglio dire questo, però non è che uno dice ma io voglio libertà di posso dire tutto, qualsiasi stupidaggine passa per l'anticamera del cervello, tu la puoi dire. Vabbè, chiaro, lì senti Radio questa Padania, roba, senti questa roba, sempre Pellegrini che saluta Andro Mercù, che ogni tanto monitora per noi quello che succede su Radio Padania. Senti. Questa stando in periferia di argomento, saluto la personcina che lavora per la Zanzara di Radio 24, che vi ricordate, l'ha detto lo stesso il Ciociaro, come si chiama? No, Parenzo è quell'altro. Insomma, l'ha detto il Ciociaro, che l'ha detto a Radio Padania, perché Radio Padania ha intervistato il Ciociaro dopo che il Ciociaro ha insultato, minacciato. E questo è lo stile Lega, ma quello è un altro paio di maniche. Ha detto che hanno messo un uomo fisso ad ascoltarmi. Quindi lo saluto, mi rendo conto che è un ruolo sfigato. Vedrai, caro amico, che quando al prossimo turno ti permetteranno di portare il caffè in redazione, potrai usarlo per il praticantato. Comunque sappi una cosa, tu lavori per il padrone, lavori per Confindustria e sicuramente prendi il doppio se non il triplo di me, quindi è un lavoro infelice. Allora, caro Pellegrin, la persona che tu hai testè nominato è sbeffeggiato, va bene, non lavora affatto per il padrone, cioè noi non lavoriamo per il padrone, sei tu che lavori per un partito e sei pagato da noi con i nostri soldi, capito? Bravo, perché Radio Padania, che ti permette di dire stronzate giustamente, bravo, dalla mattina alla sera, è pagata con i soldi nostri, bravo, chiaro? Di Roma fuori, senza, basta, mandate i carabinieri, basta. Con i soldi nostri. E io spero che questi soldi non ci siano più, non perché ti voglio male. Guarda oltre i monti. Perché basta finanziamento pubblico a testate inesistenti. Non dico che sia inesistente, perché poi tra l'altro mi piace pure. Però a chi ti vuol fermare? Vabbè, chi c'è qua? Riccardo, Firenze. Fai vedere quanto è bella la tua terra. Dimmi, caro. Sì, buonasera. Innanzitutto complimenti per la performance canora, veramente eccezionale. Sono un insegnante di musica in conservatorio, veramente bravo. La seconda. Ma lei è molto bravo. La seconda, direi. No, veramente, veramente di grande effetto. Comunque il motivo per il quale la sto chiamando è abbastanza semplice. Cioè? Avendo tre figli, hanno frequentato le scuole elementari, proporrei una quota azzurra nelle scuole primarie, sono tutte donne. È vero. Mi annuncio niente, non sono misogino. No, perché però qualche maschietto ogni tanto gli fa capire che il mondo è fatto anche da uomini, non sarebbero così sbagliato, insomma, ecco. Ciao Parenzo, ci sentiamo lunedì 18:30 di Mortacci 2. Non si è sentito niente. A lunedì. Lascia che io sia il tuo brivido più grande. E non andare via, non sei più così distante. Ma che cazzo vuol dire? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Radio 24. La passione si sente.